Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo subito la mail, unabuso al giorno@radio24.it. Vi ricordo il mio blog, Guardie o Ladri, lo trovate sulla home page del Sole 24 Ore. E infine vi ricordo, volete andare sul nostro sito a riascoltarvi o ad ascoltarvi puntate che vi siete persi? Vabbè, sapete che non c'è nessun problema. www.radio24.it, andate per singole trasmissioni, lì trovate l'archivio per mese, anno, tipologia argomento trattato, quindi potrete anche scaricare le puntate che sono andate in onda che vi siete persi. Allora, abbiamo ricevuto tra le tante lettere una lettera che riguarda un rapporto abbastanza complesso con Cartasì, e per farcela spiegare ed avere anche un confronto, noi abbiamo da una parte il radioascoltatore Edoardo Cini. Buongiorno Cini. Buongiorno a voi. E dall'altra Fabio Picciolini, che è il segretario nazionale di Adiconsum. Buongiorno Picciolini. Buongiorno. Allora, i radioascoltatori si potranno domandare, si staranno domandando probabilmente, è Cartasì? Cartasì noi l'abbiamo cercata, l'abbiamo braccata come farebbe un cacciatore con una poiana. Ebbene, nonostante lettere, telefonate, anche dei confronti amichevoli del tipo sì, senz'altro ci saremo, ma no, ma non vi preoccupate, ancora oggi, giorno di registrazione, l'abbiamo cercati con una mail, quindi carta canta, invitandoli a partecipare, e dopo tanti sorrisi non ci sono. Così è, se vi pare. Allora, Cini, ci racconti la sua storia con Cartasì. Dunque, la mia storia è molto semplice. Io nel 2000 mi sono trasferito a Roma, ho stipulato un contratto con una banca, che non so se posso dire, comunque sì, Monte dei Paschi. Sì, no, diciamola, ci mancherebbe. Monte dei Paschi di Siena, che si avvale di Cartasì come carta di credito. Sì, non è l'unica, lo fanno centinaia di banche, ovviamente. Anche, certo. Nel mio caso era proprio certo. Monte dei Paschi di Siena. L'ho utilizzata dal 2000 fino, diciamo, a pochi mesi fa, quindi fino a settembre-ottobre. Praticamente a settembre-ottobre ho deciso di chiudere il rapporto con la Monte dei Paschi di Siena per passare a un'altra banca. L'altra banca naturalmente ha il suo circuito di carte di credito e non prevede la carta sì come circuito. Che cosa è successo? Telefonando a loro, prima di disdire la carta, ho chiesto... A loro sarebbero carta sì? Sì, carta sì. Certo. Perché siccome tutti questi anni ho partecipato, tra l'altro a pagamento, perché è un servizio che loro fanno a pagamento annuale, al servizio di, come si può dire, di accumulo punti. Certo, sì, sì, sì. Comunque è un sistema di accumulo di punti per poi avere dei premi, no? Che costa, mi pare, intorno ai 10-12 euro all'anno. Sì, potevo disdire la carta sì perdendo i punti che avevo accumulato in tutti questi anni. Tenga presente che avevo accumulato circa 52.000 punti. Cioè, se poteva disdire, ma non perdendo. Non perdendo, naturalmente. Certo. Mi ha detto: sì, guardi, nessun problema, perché ha 60 giorni di tempo dal momento in cui ha disdetto la carta. Quindi lei queste informazioni le ha ricevute telefonicamente? Dal call center di carta sì. Dal call center loro, e anche più di una volta. Perché poi io ho fatto quello che dovevo fare, ho disdetto la carta. E telefonando al call center, dopo pochissime settimane, ho chiesto di poter convertire quei punti in buoni con altri partner. Mi interessava in quel caso Vodafone. Gli operatori la prima volta mi hanno detto, dice: guardi, abbiamo problemi tecnici, non riusciamo a fare questo tipo di conversione. Provi a ritelefonare più tardi perché abbiamo problemi con il computer. Ho ritelefonato, diciamo, un paio di volte o tre. Alla terza volta mi ha risposto, devo dire, un ragazzo molto, molto gentile, che mi ha detto, dice: guardi, non riesco a essere lì e non capisco per quale motivo. E io gli ho detto, dice: guardi, è successo anche con gli altri operatori. Dice: un attimo che mi informo. Mi ha risposto dicendo, dice: ah, guardi, ho capito per quale motivo, perché lei ha disdetto la carta. Dico: sì, ma dico, il problema qual è? Dice: no, il problema è che lei, facendo la disdetta della carta, non ha più diritto a questi punti. Certo. Ho detto: scusi, quale motivo non ho più diritto a questi punti? Ma guardi, purtroppo lei ha ragione, ma mi dicono così. Dice: guardi, l'unico modo per recuperare questi punti è che lei faccia la conversione di questi punti su un'altra carta sì. Dice: con la sua nuova banca lei fa un altro contratto con carta sì e quei punti li possiamo trasferire. E ho detto: guardi, ma io il problema è che ho una banca nuova, che non prevede il circuito carta sì. Certo. Dico: scusi, dico, ma onestamente, dico, ma le sembra normale che un cliente dal 2000, quindi qui si parla di 9 anni, perda la fidelizzazione di tutti questi anni su un servizio che voi fate, tra l'altro, a pagamento? Apro e chiudo parentesi. È indubbio. Il ragazzo intelligentemente mi ha detto sì, effettivamente la capisco. Dice guardi, aspetti un attimo che provo a metterla in comunicazione con chi sta sopra di me. Sono stato al telefono per ben 25 minuti finché mi ha risposto una signorina, come ho scritto nella mia lettera, non gentile, perché mi ha trattato in maniera molto secca. Mi ha detto, dice guardi, è inutile che stiamo a parlare di questa cosa, perché lei ha firmato un contratto in cui c'è scritto che nel momento in cui rinuncia alla nostra carta perde ogni beneficio. Beh, comunque, il racconto è chiarissimo, cornuto e mazziato mi viene. Cornuto e mazziato, però gli ho detto, dico scusi, dico abbia pazienza, dico ma le sembra, dico probabilmente io non avevo letto neanche il contratto perché questo è indubbio, perché poi sono scritti con un corpo minuscolo, sono una sessantina di pagine generalmente, non mi riferisco soltanto a carta, sì, ovviamente il mio è un paradosso, soltanto per spiegare che se uno dovesse leggere tutto probabilmente non firmerebbe mai niente nella vita, perché si va molto anche sulla fiducia, così dovrebbe essere. Il racconto è chiarissimo, Cini, e dico anche, aggiungo una cosa, il 9 dicembre del 2009 alle ore 23:02 il nostro radioascoltatore, quando ci ha mandato la lettera, ci ha fatto vedere, ci ha mostrato anche che la stessa identica lettera era stata mandata a Cartasì, quindi Cartasì non può neppure dire ma noi non l'avevamo o non ci avete contattato. Noi abbiamo tempestati di chiamate, ma lo stesso radioascoltatore, ex cliente del circuito Cartasì, li ha contattati diverse volte. Allora Cini, io le interrompo qui nel suo discorso perché è tutto chiarissimo. 9 anni di raccolta punti, andati a quel paese, 52.000 punti, regali che lei avrebbe potuto prendere magari per questo Natale, bilancio familiare alleviato, e invece così non sarà. Picciolini, segretario nazionale di Consum, ripeto, come commentiamo questa vicenda? Quanto è frequente? Che cosa si può fare? Ma questo è un comportamento che sinceramente non capisco, perché io ovviamente, anche se in pochi, in un'ora, ho cercato di capire come stessero le cose, non mi convince il comportamento di Cartasì. Ma la cosa che non mi convince a monte è la maleducazione, diciamola col nome e col cognome, da parte di qualche dipendente, qualche call center, non so bene chi cosa sia, ma per cui io già su questo che sarebbe opportuno fare una segnalazione. Non più tardi della prossima settimana entreranno in vigore nuove norme sulla trasparenza sul comportamento delle banche che vanno a tutela del cliente. Io comincerei già a farlo subito. Detto questo, invece, sul fatto concreto, io ho fatto una cosa molto semplice: ho aperto internet e ho guardato prima il regolamento di questo gioco Io Sì, che prevede, appunto, come diceva giustamente il radioascoltatore, tranne il primo anno una quota annuale di 12 euro, quindi 12 euro. Diciamo che già è un fatto a pagamento. Sì. Detto questo, c'è sul sito c'è una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che non parla assolutamente che uno perde il diritto ai premi. Dice esattamente, così non può, non sbaglio, per avere diritto all'omaggio, la quota omaggio sarà valida esclusivamente per il primo anno di adesione al programma, sì, il titolare dovrà iscriversi volontariamente e via dicendo, e non dice assolutamente nulla sul fatto che uno si cancelli. Poi mi rimandano al contratto di carta di credito, sono andato a prendere anche quello, la voce è quella che riguarda il recesso dal rapporto, e non dice assolutamente nulla, dice che il cliente è libero con 2 mesi di anticipo di recedere dal rinnovo annuale della carta, punto. Non c'è scritto né che non ha diritto ai regali né che perde altre cose e via dicendo. Quindi mi sembra che questo comportamento di Cartasì non sia assolutamente condivisibile, e pertanto, visto che già è in vigore, io direi di fare immediatamente una segnalazione, un esposto all'arbitro bancario finanziario presso la Banca d'Italia. Ne esistono 3, secondo la residenza, se non sbaglio, a Roma, esistono a Milano, Roma e a Napoli, quindi credo che l'ascoltatore dovrà farla a Roma. Ovviamente noi siamo disposti a dargli una mano. Anche una mano, certo. Sono moduli prestampati e molto semplice, però se il radioascoltatore vuole gli diamo tranquillamente una mano, perché ripeto, leggendo sia l'atto di notorietà in cui è stato comunicato al Ministero dello Sviluppo che c'è un concorso a premi, sia leggendo il contratto che è sul sito, quindi non ho preso cose così difficili, certo, che Cartasì non può dire, non può fare o non può consegnare, non c'è scritto da nessuna parte che si perde il diritto al premio. Peraltro il signore ha avuto non dico la sventura, ma il caso, perché poi Cartasì la offrono quasi tutte le banche, di passare, per scelta sua personale giustamente, da una banca che aveva Cartasì a una banca che non ha Cartasì, ma questo non può certamente essere imputato al consumatore. Benissimo. benissimo. Io ringrazio Picciolini per le dritte anche che ha dato al nostro radioascoltatore, coloro i quali si troveranno o si saranno trovati nella stessa situazione. Rinnovo l'invito a Carta Sì, i nostri microfoni sono sempre aperti per tutti. Grazie ai nostri due ospiti, in regia Fabio Cantatori, in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.